sia i dati che l'attività di Legambiente sul territorio regionale in questi anni dell'approvazione della legge ha sostanzialmente testimoniato il fatto che non si sia giunti agli obiettivi che prevedevano un'effettiva riduzione del consumo del suolo. Questo perché abbiamo visto che continuano a verificarsi episodi di proposte, progetti di nuove urbanizzazioni e anche di dimensioni molto rilevanti sul territorio regionale e che evidentemente la nuova legge urbanistica non è riuscita a contenere. Con il dossier abbiamo voluto analizzare e censire una parte di questi di episodi, di queste situazioni, di queste vicende, proprio allo scopo di portare degli esempi di quello che si è verificato in regione e quello che chiaramente noi auspichiamo si riduca il più possibile dal punto di vista di quanto accadrà in futuro. Chiaramente quello che noi auspichiamo è che anche lo strumento legislativo venga adeguato, dico adeguato per dire cambiato, nel senso che ci siano vincoli sempre maggiori agli utilizzi del suolo naturale e del suolo agricolo, che oggi evidentemente non sono stati posti in maniera così decisa da effettivamente consentire una riduzione del consumo. E ci può spiegare bene che cosa prevedeva la legge e quali sono le problematiche principali? Allora, la legge ha previsto innanzitutto due differenti regimi, per così dire, di attuazione. In una prima fase la legge prevedeva la possibilità per i comuni di rendere attuativi tutte le previsioni urbanistiche, quindi i progetti che prevedevano consumo di suolo, che erano presenti nei piani che erano stati approvati prima del 2018. Questa prima fase ha avuto come conseguenza l'approvazione di una serie di delibere, cosiddette delibere di indirizzo, in cui i comuni hanno potuto prendere quello che era contenuto nella pianificazione previgente e attuarlo. Tutti questi quantitativi di suolo che sono collegati a questi progetti non verranno, ad esempio, computati all'interno di quello che è stato il limite individuato dalla legge per ridurre il consumo di suolo, che era il limite del 3% rispetto al suolo effettivamente urbanizzato al 2018. A seguito della prima fase, la legge ha previsto l'entrata in vigore dei piani urbanistici generali, che sono i nuovi strumenti di pianificazione urbanistica dei comuni. Questi strumenti abbiamo cercato di monitorare attraverso il dossier e non sono stati ancora approvati se non in una minima parte dei comuni della regione. Questo ci fa dire che in realtà il processo di adeguamento previsto dalla legge urbanistica sta procedendo ancora molto a rilento, probabilmente a causa del fatto che gli stessi comuni hanno concentrato le loro forze soprattutto nel far approvare quelle che erano le previsioni provenienti dai piani che erano vigenti prima dell'approvazione della legge urbanistica. Quindi questo, insomma, in generale ci fa pensare che c'è ancora un processo di consumo di suolo che sta proseguendo dagli anni passati. È un processo che non è stato ancora arrestato perché la legge stessa comunque ha consentito un quantitativo di nuove urbanizzazioni pari al 3% come una sorta di cuscinetto rispetto a quello che era il vecchio regime dei processi di trasformazione del territorio. Quello che noi auspichiamo è che la legge venga adeguata per far sì che effettivamente il consumo di suolo che è stato compiuto in questi anni venga monitorato e che se ne tenga conto all'interno di quel 3% per far sì che non ci siano troppe eccezioni dal punto di vista dei quantitativi autorizzati rispetto a quello che la legge invece aveva promesso di ottenere. Questo è uno dei motivi per cui avete anche scelto di uscire dal patto per il clima? Sicuramente all'interno dell'uscita del patto per il lavoro e il clima della regione è pesato sicuramente anche questo genere di situazioni. Dal punto di vista dell'urbanistica e del modo in cui viene normata, noi abbiamo anche fatto una proposta specifica insieme alla rete emergenza climatica ambientale che è insieme di associazioni e comitati che è presente in Emilia Romagna per cercare di far sì che questa legge urbanistica venga cambiata in meglio e in questo modo, diciamo, cercare di facilitare in un certo senso anche il dibattito all'interno della regione per far sì che si arrivi effettivamente a una normativa il più possibile stringente. Questo però non è accaduto negli anni in cui eravamo sottoscrittori del patto per il lavoro e il clima e chiaramente questo è stato un elemento sicuramente di criticità rispetto all'azione che la regione ha portato avanti. Quanto è importante il suolo in termini di risorsa? Il suolo è innanzitutto una risorsa non solo dal punto di vista spaziale, nel senso che chiaramente nel processo di pianificazione spesso si interpreta la superficie che viene consumata come uno spazio che viene, per così dire, destinato ad attività diversa. Generalmente l'attività agricola viene sacrificata a vantaggio di un'attività che prevede comunque l'insediamento di strutture, edifici e così via, infrastrutture anche. E non è solo questo il suolo costituisce una risorsa naturale non rinnovabile. Questo, dal nostro punto di vista, è un elemento che andrebbe tenuto in considerazione all'interno del processo di pianificazione. Questo ancora evidentemente non accade. Il suolo è il luogo in cui una serie di organismi viventi e componenti degli ecosistemi svolgono la loro vita e le loro funzioni biologiche. Questo fa sì che ci sia la capacità da parte del suolo di compiere i cosiddetti servizi ecosistemici, quindi delle vere e proprie funzioni informazioni che vanno a beneficio delle persone, della vita delle comunità umane sul territorio, ad esempio il tema della capacità del suolo di trattenere l'acqua e piovana e quella che scorre, è evidentemente un elemento che in periodi come quello che abbiamo appena vissuto dell'alluvione assumono un rilievo particolarmente importante. Il suolo è anche il luogo su cui si poggiano chiaramente le culture agricole, quindi è assolutamente rilevante per tutte le produzioni alimentari e chiaramente poi per tutto quello che può concernere i benefici indiretti legati alla presenza di piante e vegetazione, quindi all'assorbimento di CO2, la cattura di sostanze inquinanti che si trovano nell'aria o nel terreno stesso. Si tratta quindi di una matrice ambientale che è assolutamente fondamentale e che noi speriamo venga riconosciuta sempre più non solo come semplice spazio da occupare, ma al contrario come una risorsa che effettivamente produce dei benefici per le persone e per le comunità e quindi che abbia una sua rilevanza anche dal punto di vista ecologico.